per farne gli alternativi, per far finta di essere vivi. Passi comprano lo Star Trek, che i soldi che hai gettato, papà, fa la gara di tutto. Lasciali vomitarsi addosso le palle che riguardano le pastiglie di cui si cibano, le puttanelle che gliela danno e le mucche in garage posteggiano. Ma in realtà lo sai quello di chi è, solo uno sbruffone frustrato che cerca in tutti i modi di attirare l'attenzione solamente su di sé.